Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto. Eccoci qua anche oggi pomeriggio, benvenuti a tutti per raccontarvi storie dei figli di Enea. Storie imprenditoriali oggi perché parliamo di un progetto che si chiama Byte ed è finanziato dall'Unione Europea, realizzato in Italia dalla Fondazione ISMU, da Etimos Foundation e dall'Università Cattolica di Milano, per dare modo a migranti che sono in Italia da molto tempo di realizzare la loro idea imprenditoriale. Finora questo progetto ha selezionato alcune idee di business innovative che possono essere realizzate in Italia o nel paese d'origine. Fra questi, tra l'altro, un progetto di import-export di cibo biologico dall'Africa, poi una residenza per anziani in Costa d'Avorio e così via. Il progetto nasce per supportare i migranti della diaspora africana in Italia da molti anni che vogliono fare impresa. Noi vi raccontiamo due di queste storie. Una delle protagoniste è Florette Zengue. Benvenuta, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, Florette, raccontiamo un po' più di lei e dopo raccontiamo anche qual è il suo progetto, perché è un progetto, come dicevamo, che nasce da un'idea, ma che lei ha imparato a formulare grazie a dei corsi di formazione che si sono tenuti e che le hanno potuto insegnare come si fa passo dopo passo a fare impresa, a diventare un'imprenditrice. Lei è rifugiata politica ed è una futura imprenditrice nel ramo della ristorazione. Qual è la sua idea innanzitutto di business? Che cosa vuole realizzare? Vengo dal Camerun, sì. Ormai sono in Italia da 15 anni, rifugiata politica. Questa idea mi è venuta da un bel po' che sì, voglio creare questo fast food ristorante africano. A Bologna, e ovvero un po' girato, ci sono i fast food, no? Che presentano sempre carne e tutto. Vorrei portare un'idea innovativa, portando un cibo sano, invece del pane sempre, che sarà fatto a base di platano. Quindi la sua idea è di portare del cibo sano, innovativo, che sia anche veloce, però che la gente possa consumare velocemente. Velocemente, sì. E che sia africano, quindi una cucina etnica. Sì. Sì, in Africa è vero, siamo tanti paesi diversi, ma le abitudini culinari le ritroviamo quasi uguali da una parte all'altra. Io sono dell'Africa centrale e da noi abbiamo una moltitudine di piatti. Dunque, facendo un fast food, tanti di questi africani si trovano, no? Nel paese, perché giustamente arrivare qui, poi girare per tornare a casa per mangiare questi piatti è un po' difficile, dunque. Quindi la clientela alla quale poi lei si rivolgerebbe è una clientela per lo più africana di origine? No, totalmente africana alla base, ma sarà un ristorante o un fast food aperto a tutti, a portata di tutti. Quindi la sua idea è di fare un fast food africano, il primo in realtà in Italia? Sì, perché non ho ancora sentito in giro che si fa fast food africano, dunque. Ma che piatti vorrebbe proporre? Proporrei per esempio i beignet haricot, delle palline di farina fritti, che si mangia velocemente con i fagioli anche saltati, perché da noi invece del pane alla mattina tanti bambini mangiano queste palline di farina, perché il pane costa, dunque tutti gli africani si ritrovano in quello. E poi ci sarà del platano fritto, il platano è anche un cibo che si ritrova in quasi tutti i paesi africani, quello lì della parte fast food, perché si farà del platano maturo fritto e sì, a tante persone piace. Con del pesce o del costine, delle costine di maiale fatto alla brace, dunque, delle cose leggere e veloci. Lei, Floretta, è un'appassionata di cucina, no? Non è la prima volta che si occupa di ristorazione, di cucina, perché ha lavorato a Bologna nel settore della ristorazione scolastica, quindi era una cuoca. Sì, non nel settore scolastico, ho lavorato in centro di accoglienza per minori non accompagnati, dove giustamente facevo la cuoca e facevo la mamma per loro, dunque a cucinare per loro tutti i giorni. E poi nel frattempo faccio anche catering per gli eventi, matrimoni, battesimi e tante altre cose. I'm a dumb teen boy, I eat sticks and rocks and mud. I don't care about the government and I really need a hug. I feel stupid, ugly, pretend it doesn't bother me. I'm not very strong, but I'll fuck you up if you're mean to bugs. Lei è anche una madre di quattro figli. Cinque. Quattro sì, che ho partorito, poi il quinto che ho adottato. Che ho adottato in questo centro di accoglienza che adesso è con me, dunque, perché da una mamma a una mamma non bastano mai i bambini, ormai a me non bastano, perché a me piacciono i bambini in più di quelli che ho tanti altri che girano e vengono sempre a casa a mangiare. Mi racconti un po' la sua vita. Lei è venuta dal Camerun in Italia. Beh, partita dal Camerun per questa ragione che in Camerun non c'era da lavorare, perché abbiamo una situazione politica lì con un presidente che è lì da 38 anni. La situazione era diventata pesante, perché sì, si finisce di studiare e poi non c'è lavoro. Poi con tutte le persecuzioni che possono subire chi tenta di alzare la voce o di pensare diversamente, la situazione non è neanche oggi incoraggiante per tante persone, dunque a un certo punto quando uno riesce scappa. Quando è scappata, era da sola o è scappata con la sua famiglia? No, ero da sola, poi dopo il mio ultimo figlio l'ho fatto qui a Bologna, gli altri sono arrivati dopo. E il più piccolino, diceva, è un ragazzo che non è suo figlio biologico, ma è diventato suo figlio, sì. Che lei ha deciso di adottare, un ragazzo, un migrante non accompagnato, sì, un ragazzo. No, sì. Che le ha incontrato dove? Nel centro di accoglienza dove, per minori, dove lavorava? Sì, in quel centro lì, sì. E com'è nata questo affetto, questo amore? Allora, io quando sono arrivati lì in quel centro, tutti venivano e dicevano buongiorno signora, buongiorno signora. Ma lui quando è arrivato mi ha guardato e mi ha detto buongiorno mamma. Che per me è scattato qualcosa dentro. Quanti ho detto, anni aveva suo figlio allora? Quello aveva 15 anni e mezzo, 16, e poi veniva sempre, hai bisogno di una mano, ti posso aiutare, posso fare qualcosa per te. Ormai ho un cuore di mamma, quando vede uno che è tenero, poi ho detto perché no, se ho già gli altri, un altro non è che è così difficile, no? Ormai noi in Africa si dice quando c'è per uno c'è per mille. Suo figlio, questo ragazzo che lei ha adottato, da che paese viene? Dal Senegal. Lo sento mio e poi in questo momento vive con me. E la madre biologica di questo ragazzo c'è? È viva? No, lui è un orfano. E lei, Floretta, adesso che cosa fa? Lavora ancora come cuoca? Con la situazione di 2000 fino al 2018, con questi porti che sono stati chiusi, non arrivavano più i ragazzini, dunque tanti centri sono stati chiusi, tanti centri di accoglienza per minori, dunque, tra quale il nostro. Dunque sì, da quel momento lì sono un po' così. Non ho un lavoro fisso, giro solo a fare il mio catering per delle feste. Poi adesso con questa situazione anche diventa un po' difficile. It's getting cold down here underneath the weather. I skip class to sit with you. I really like your spotty sweater. Ladybugs are girls. How do you make kids together? What's it like in a female world? I bet it's just so much better. I just turned 14 and I think this year I'm gonna be mean. Ha già cercato, individuato il locale dove vorrebbe aprire la sua attività? Dopo il corso che abbiamo fatto con il progetto Bike, abbiamo fatto questo business plan che sì, tramite la fondazione è stato mandato in banca, dunque stiamo aspettando, ma visto la situazione da momento è un ristorante, un fast food che va aperto. Con la situazione Covid adesso siamo un po' così ad aspettare, perché chi ti finanzia in questo momento? Chi ti finanzia? Dunque, sì, la parte fast food si poteva fare, ma rimane sempre sì, questa difficoltà con tutti i decreti e la situazione Covid. Invece sì, un posto l'avevo già trovato e dove andare a fare questo progetto. Grazie Florette per essere stata con noi questo pomeriggio, per averci raccontato i suoi progetti e un pezzo della sua vita. Buona giornata. Grazie, grazie mille, grazie a voi, buona giornata. I figli di Enea. Bentornati ai figli di Enea, la nostra trasmissione. Oggi stiamo parlando con alcuni aspiranti imprenditori del progetto Byte. In questa seconda parte io do il benvenuto a Petua Siriche. Benvenuta, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Petua, lei ha una laurea in economia in Uganda e si è trasferita a Milano in realtà per studio. Sono arrivata in Italia nel 2008. Avevo vinto una borsa di studio per fare un master all'Università Cattolica di Milano, quindi sono in Italia da quasi 12 anni. Infatti io pensavo che dopo il master sarei tornata in Uganda a cercare lavoro, però anche prima di completare il master ho avuto l'opportunità di lavorare, di fare uno stage in Meridiana Fly, la compagnia aerea. E da lì ho iniziato a lavorare pensando di accumulare esperienza lavorativa in Italia per poi tornare in Uganda. E poi cosa è successo? Cosa ha deciso di fare? Mi è venuto anch'io l'idea di provare a fare l'imprenditrice. Così ho acquistato il mio primo appartamento, ho iniziato ad affittarlo su Airbnb. Ho visto che veramente, cioè, mi piaceva tantissimo. Mi sono anche migliorata come persona, poi ho iniziato a aggiungere alcuni servizi tipo la colazione e poi anche tipo i pick up dall'aeroporto, i tour di Milano. E ho visto che è una cosa che mi dava più soddisfazione che il mio lavoro mi dava. Sharpens calling me again, try and turn it into some. Thing I can draw into my skin. Make it a picture that I love instead of something that I wish I could get in the bath and scrub right off. Ha capito che da imprenditrice di se stessa, da libera professionista era più consono alle sue corde. Sì. Una cosa che non pensavo prima, perché anch'io pensavo di fare carriera in azienda, ma facendo questa cosa a parte mi dava più soddisfazione che il mio lavoro. Il mio lavoro mi piaceva, però questa attività di più. E adesso che E cosa vuole quindi. realizzare con questo progetto Byte? Innanzitutto lei ha fatto dei corsi, no, attraverso questo progetto. Sì. Allora, da lì ho incontrato un ex professore, che era il mio professore all'università, e ci ha presentato questo progetto Byte, e subito cioè, ho frequentato questo corso e mi ha dato tante di quelle idee, perché io diciamo che la pratica ce l'avevo, però la teoria non, cioè, mi sono resa conto di non averla. E quindi facendo questo progetto Byte volevo ampliare questa mia attività di ospitare. Diciamo che cercavo di fare un alloggio low cost per i turisti, però purtroppo a causa di Covid, diciamo che il progetto si è fermato, perché anche i turisti a Milano ormai sono quasi spariti. E quindi, giusto per non perdere l'informazione oppure cioè questo corso, ho deciso diciamo che di cambiare progetto e cercare un servizio che va, nonostante la crisi, nonostante, comunque con un servizio necessario, diciamo, per i cittadini. Mi è venuta l'idea di avviare una lavanderia self-service, un servizio importante, perché la gente ha bisogno di lavarsi i vestiti. Per esempio, no? Ci sono alcune zone di Milano dove abitano gente anziana e non riesce neanche, boh, non lo so, quindi io pensavo di fare un servizio dove io vado a casa di queste persone, sì, sarà aperto per tutti, però di dare quel servizio in più alle persone che non possono, e per esempio le persone con handicap oppure le persone anziane. Devo proprio sognare in grande, e questa è una cosa che l'Italia mi ha dato, mi ha aiutato proprio a tirare giù i soffitti, qua mi sento che tutto è possibile, tutto è possibile, una cosa che non sentivo in Uganda. C'erano tante limitazioni, ma anche il fatto di avere cose come internet, wifi, dove, cioè, posso, cioè, guardare ai imprenditori online, no? Per me sono cose molto molto importanti, che mi danno anche la forza di andare avanti, che tutto è possibile. Non è facile, non dico che è facile, però mi sento proprio che tutto è possibile. Vengo dalla capitale, Kampala, e quindi sono andata a scuola, si vive bene. Diciamo che non ci sono conflitti, però, come posso dire, lì c'è una, non voglio neanche dire la corruzione, ma diciamo che non ci sono possibilità per tante persone, no? Qua in Italia possiamo lamentarci, però c'è un livello, no? Ci sono degli standard accettabili, no? Invece lì veramente c'è. Gli standard sono bassi, e quindi non ci sono tante possibilità diciamo che il gap tra i ricchi e i poveri è talmente Certamente c'è anche la mentalità, è molto importante. Lì diciamo che la gente si sì, ormai ha accettato, no? Accettato la situazione, mentre qua cioè, si vede che c'è il gap, ok, c'è il gap tra i ricchi e i poveri, non è così molto grande, no? E quindi comunque ci sono servizi di base, c'è salute, c'è. Sono anche molto contenta che ho avuto l'opportunità di venire in Italia perché mi ha cambiato talmente tanto la mentalità quando parlo con i miei amici, persone con cui sono cresciuta, persone con cui sono andata a scuola, vedo che parliamo di, cioè, abbiamo due mentalità diverse, molto Mi faccio un esempio diverse. pratico. Per esempio, una ragazza ugandese, no? Una ragazza ugandese, lei pensa, ok, c'è subito dopo scuola, io mi sposo e ci risposo e quindi devo per forza cercare un uomo con cioè una persona che riesce a mantenermi, no? Anche se sono andate a scuola queste ragazze. Mentre qua, se io vedo veramente le donne, anzi, sono le donne che anche mantengono le famiglie, no? E quindi è una differenza che vedo. Anch'io forse prima pensavo così quando ero in Uganda, no? Cioè, io mi sposo, vengo mantenuta, però adesso in tutti gli effetti mi sento proprio donna, mi sento proprio una persona che riesce a mantenere anche una famiglia, no? Cioè non è che aspetto una cosa che forse prima cioè, aspettavo, ma adesso no. È Cioè, chiaro, è chiaro. Le è mai sì. capitato di subire in Italia discriminazioni? All'inizio c'è gente che anche, proprio gente che non sto parlando della prima persona che passa per strada, ma anche persone diciamo, di un certo livello che ti incontrano e la prima cosa che ti chiedono, ma dove fai la badante? È un lavoro nobile, va bene, no? Però almeno chiedimi cosa faccio, no? E non Non dare per scontato. arriva. Però quelli che ti vedono per la prima volta già hanno pregiudizi. Grazie, in bocca al lupo per la sua attività. Grazie, grazie. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto di questa puntata. Io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre alle 14, sulle frequenze di Radio 24. Buon pomeriggio e buona domenica a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao!